voi per la grande opportunità di avermi, che mi è stata offerta per poter presentare e relazionare in buona parte dei convegni del CESPE. Io credo che sia stato fatto un lavoro straordinario. A conti fatti, penso che possiamo dire tranquillamente che questi convegni hanno parlato a più di un migliaio di insegnanti sino a questo momento, ma altri sono stati organizzati per i prossimi mesi. Io ho la sventura di essere siciliano e la Sicilia è stata la regione in cui ha fatto da apripista, in cui sono stati sperimentati tutta una serie di processi, di percorsi che oggi sono purtroppo patrimonio delle scuole d'Italia. Vorrei ricordare che l'Ufficio Scolastico Regionale Siciliano è stato il primo in Italia a sottoscrivere un accordo quadro con l'esercito italiano proprio per far svolgere a centinaia di studenti siciliani l'alternanza scuola-lavoro all'interno delle principali caserme dell'esercito in Italia. Immediatamente dopo c'è stata la Marina Militare, a inizio anno scolastico ha firmato un accordo quadro con alcuni istituti della provincia di Catania per svolgere l'alternanza all'interno della base della Marina Militare di Catania Fontanarossa, che ha un enorme ruolo di tipo geostrategico militare. Purtroppo era già accaduto in passato, ma meno di una quindicina di giorni fa c'è stato un ulteriore salto di qualità con la base di Sigonella, che sappiamo essere una base italiana, statunitense e NATO, che è una base che ha un ruolo geostrategico fondamentale nel conflitto in Ucraina, lo ha rispetto al continente africano, lo ha rispetto al Medio Oriente, è la base da cui quotidianamente decollano aerei a pilotaggio remoto o a pilota che svolgono attività di intelligence nel Mar Nero, al confine con l'Ucraina. Pertanto riteniamo essere una base che conferma la co-belligeranza del nostro paese rispetto a questo conflitto. Ebbene, l'Aeronautica Militare Italiana ha sottoscritto un accordo con 7 istituti di tutta la Sicilia orientale per far svolgere da qui alla fine dell'anno l'alternanza scuola-lavoro all'interno degli hangar dell'aeronautica, esattamente in attività di manutenzione con i velivoli da guerra dell'aeronautica. Quando non sono le scuole siciliane ad andare a Sigonella, sono i Marines USA di Sigonella a entrare nelle scuole. Io direi che sgomitano i dirigenti scolastici di molte province siciliane per averli a scuola, dove svolgono un'enorme quantità di attività, corsi di inglese, corsi di alimentazione, corsi di educazione fisica, attività che riguardano anche il bullismo, che riguardano la violenza sulle donne, che fanno anche da sostegno psicologico agli studenti, una cosa veramente insostenibile, insopportabile e riteniamo in profonda violazione a quelle che sono innanzitutto le norme costituzionali, ma riteniamo anche in violazione a quelle che sono le convenzioni internazionali a protezione del fanciullo sottoscritte dal nostro paese e in particolare anche un protocollo aggiuntivo che vieta di fatto qualsiasi tipo di relazione tra le forze armate e minori. Pensiamo al PCTO, ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ma la stragrande maggioranza di queste attività si svolgono anche con scuole primarie e con scuole elementari, per cui parliamo di una fascia di età dai 3 ai superiori. Concludo, proprio perché ci troviamo a Roma, io esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari dei militari dell'aeronautica italiana che hanno perso la vita qualche giorno fa del 60° stormo di Guidonia. Sono sconosciute le cause tecniche che hanno portato alla collisione di questi due SIAI Marchetti, due velivoli leggeri. Esprimo il mio cordoglio, ma esprimo la mia indignazione per il fatto che questi aerei, questo reparto viene utilizzato da anni per attività, per un progetto nazionale sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e l'Aeronautica Militare, che si chiama Cultura Aeronautica. Gli stessi velivoli, lo stesso reparto era stato impegnato meno di una settimana fa a Forlì in un progetto che ha visto in 15 giorni 160 studenti delle scuole superiori di Forlì fare queste attività col 60° di Guidonia e i più meritevoli essere a bordo di questi aerei che abbiamo visto visto che tragedia. Questo lo dico perché nel momento in cui poniamo il problema enorme della sicurezza, il problema di come il PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, ha già prodotto 3 morti, ha prodotto tutta una serie di questioni drammatiche dal punto di vista della sicurezza, credo che oltre alla questione dell'antimilitarismo, la questione del rifiuto e del ripudio della guerra, si ponga veramente il problema della totale mancanza di sicurezza all'interno sia delle fabbriche di armi, c'è la vicenda, non è l'unica, nelle fabbriche di Leonardo Finmeccanica sono tantissimi, si stanno moltiplicando i progetti, e vorrei ricordare che anche la Beretta ha un progetto enorme all'interno di una scuola della Val Trompia, dove già dai 14 anni i ragazzi vengono addestrati alla costruzione e realizzazione di armi leggere. Grazie.